Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Lo scontro tra treni, la rabbia dei parenti delle vittime in ospedale, mentre oggi arriva il presidente Mattarella, indagati e sospesi i capi stazione. Ora si guarda le altre tratte senza controllo automatico. Sono almeno 600 km, ma i numeri e la localizzazione dei binari non è chiara. Sono in povertà assoluta oltre 4 milioni e mezzo di residenti in Italia, dice l'Istat, picco massimo dal 2005, toccate soprattutto le famiglie numerose e di stranieri. Ergastolo per Giardiello, l'uomo che entrò nel tribunale di Milano, uccise 3 persone, la pistola introdotta a Palazzo di Giustizia 3 mesi prima, dice lui. I piani anticorruzione delle amministrazioni sono rimasti pezzi di carta, secondo Cantone sono 1900, la qualità, sostiene il presidente dell'ANA, che è modesta. La Sardegna con gli elicotteristi ma senza elisoccorso. Nei giorni scorsi una donna ha perso il bambino, in dicembre una pensionata è morta per essere arrivata in ritardo in ospedale. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno per avere qualche anticipazione sulla trasmissione nell'arco della mattinata e mentre la prepariamo. In apertura dunque all'incidente ferroviario in Puglia, il punto di giornata con Lucia De Mari della Gazzetta del Mezzogiorno. Lucia, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno. In attesa dell'arrivo del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari intorno alle 16 di questo pomeriggio per rendere omaggio alle 23 vittime del disastro ferroviario di martedì mattina, proseguono le indagini e soprattutto le polemiche sulla dinamica del terribile scontro tra i treni della ferrotramviaria. Il dolore per le perdite non si attenua, ma adesso sta montando il sentimento di rabbia dei parenti delle vittime, che questa mattina all'esterno dell'istituto, dove ci sono le salme, hanno chiesto giustizia senza riserve, urlando in lacrime assassini, assassini contro qualcuno che, di cui ancora non si sa. Il treno in partenza da Andria, che si è scontrato con quello proveniente da Corrado, non sarebbe dovuto partire. Non è una frase fatta, è in realtà una frase che potrebbe racchiudere la verità sulla dinamica del disastro. Infatti emergono nuovi particolari dal racconto dei feriti. I passeggeri del treno partito da Andria sarebbero stati fatti scendere da un primo treno fermo sul primo binario e fatti salire su un secondo convoglio fermo sul secondo binario, che sarebbe quindi partito in ritardo e andando poi a finire dove ben sappiamo. Intanto nei 3 filoni dell'inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Trani, nel registro degli indagati sono finiti i nomi dei 2 capistazione, di Andrea Corato, Vito Piccarreta e Alessio Porcelli, che in misura cautelare sono stati anche sospesi dall'incarico lavorativo, e poi il responsabile del movimento della stazione di Andria. La Procura di Trani intanto ha riferito che la circostanza del cambio dei treni non risulta adesso, ma che vengono acquisite le dichiarazioni rese appunto dai feriti e dai parenti delle vittime. Avete parlato in apertura di Raffaele Cantone, il presidente dell'Anticorruzione, che è intervenuto con una frase su questo disastro, dicendo che è frutto probabilmente di un errore umano, ma anche conseguenza di un oggettivo collegamento con la corruzione. E su questo ci sarà sicuramente da discutere. Sicuramente tra poco sentiremo il servizio e sentiremo anche le parole del presidente dell'Anticorruzione Raffaele Cantone su questi temi. Intanto più di un buco e più di un paradosso emergono da questa vicenda. I paradossi non sempre vanno d'accordo con la morte, ma aiutano chi sopravvive a capire cos'è andato storto quando l'incidente ferroviario tra Corato e Andria non poteva essere neppure immaginato. Primo paradosso: a Monopoli, 40 km da Bari, a sede della Mermec, l'azienda di Vito Pertosa, leader mondiale nel segnalamento e nella sicurezza ferroviaria, vende i suoi sistemi in California e Svezia, ferrotramviaria trasporta passeggeri, Mermec li protegge, una sinergia avrebbe potuto evitare dolori indicibili. Porte che si chiudono e sistemi di sicurezza installati sui treni solo dopo la posa del secondo binario, un altro paradosso, perché con 2 binari il rischio di frontale fra treni si abbassa statisticamente, o tutto o niente. A controllare ci poteva pensare l'Ustif, un ente terzo del Ministero delle Infrastrutture, a cui è delegato il compito di verificare l'efficienza e la sicurezza delle ferrovie in concessione. Il capo dell'Ustif di Bari, Pietro Marturano, però non ha dubbi, l'incidente è stato causato da un errore umano. La ferrotramviaria non è obbligata da nessuna legge ad adottare sistemi di sicurezza a bordo dei treni. Secondo Marturano il sistema non ha buchi, la paletta e il telefono del capostazione forever and ever. Mariano Maugeri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Andria. E naturalmente il tema in queste ore si allarga. Molti chilometri di ferrovia non hanno controllo automatizzato della marcia dei treni. Un'unica rete ferroviaria nazionale, l'ipotesi lanciata nelle ultime ore per avere un sistema più efficiente e sicuro. Ora RFI controlla il 90% delle ferrovie italiane, 16.000 chilometri, di cui 9.000 a binario unico. Su questi vigila l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza. L'USTIF, invece, organo del Ministero dei Trasporti, controlla gli altri 3.300 chilometri, 2.700 a binario unico, dati in concessione a terzi, pubblici o privati, come la ferrotranviaria della linea Bari-Barletta o come la EAV, che in Campania gestisce 240 chilometri, un terzo a binario semplice, e sistemi di sicurezza antichi sulla Benevento-Cancello e la Circumflegrea, non proprio una semplice telefonata del capostazione, ma quasi. Anche in Liguria c'è il binario semplice tra Loano e Finale, ma la linea è tutta elettrificata, chiarisce Stefano Martini della Filt CGL. C'è un sistema di sicurezza che si chiama SCMT, fa rallentare il treno alla avviso, in modo che semplicemente il treno non può avanzare. Se quindi la sicurezza non è legata al binario, doppio o singolo, lasciare all'uomo ogni possibilità di intervento è rischioso. In Italia sono 600 i chilometri regolati con questo sistema, dice il ministro Delrio. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andremo più avanti nel corso della trasmissione nel nostro consueto giro per l'Italia, a partire da dopo la viabilità, in due punti nei quali che risultano essere piuttosto problematici: la Campania da una parte e la Roma Viterbo dall'altra. Come si diceva, il presidente dell'anticorruzione Cantone connette questi fatti anche ai temi dei quali lui si occupa. L'incidente ferroviario in Puglia è frutto anche della corruzione. Parole del presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone, nella sua relazione annuale. L'incidente è probabilmente frutto di un errore umano, lo accerterà la magistratura, ma è certamente frutto e conseguenza di un problema atavico del nostro Paese. Un problema atavico del nostro paese, che è la difficoltà di fare le infrastrutture. Il piano anticorruzione delle amministrazioni, denuncia poi nella sua argomentazione, è rimasto sostanzialmente un pezzo di carta. Sono stati esaminati 1900 piani, la cui qualità, sostiene Cantone, appare modesta. Criticità confermate anche dall'attività di vigilanza. Nel corso del 2015 sono stati aperti ben 929 procedimenti istruttori, alcuni relativi ad importanti amministrazioni come Roma Capitale e il Ministero dello Sviluppo Economico. Sulla piaga della corruzione, però, sottolinea Cantone, c'è un risveglio da parte dei cittadini. Lo dimostra l'aumento delle segnalazioni di anomalie su appalti di lavori, servizi e forniture, passate da circa 1.200 del 2014 a quasi 3.000 del 2015. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo all'economia. Ancora nessun taglio dei tassi di interesse in Gran Bretagna. La Bank of England ha deciso di lasciare invariati i tassi allo 0,5%, malgrado le attese prevalenti dei mercati andassero verso un dimezzamento allo 0,25%. Le borse in questo momento sono complessivamente positive. Il FTSE 100 a Londra guadagna lo 0,92%, così come Francoforte. Parigi guadagna mezzo punto percentuale, il FTSE MIB a Milano lo 0,76%. Ci torneremo più avanti, come sempre alle 13.30, nel consueto appuntamento con i mercati. Per restare sui temi economici, ci sono i dati diffusi oggi dall'Istat sulla povertà. Un esercito di 4 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta, e cioè senza le risorse minime necessarie per un'esistenza dignitosa, come un'alimentazione adeguata, la disponibilità di un'abitazione, del minimo necessario per vestirsi, persone che vivono in una condizione di esclusione sociale. È la cifra record da 10 anni a questa parte, 4 milioni e mezzo, equivalente a 1,5 milioni di famiglie, quelle più colpite, le famiglie numerose, con più di 4 componenti, gli stranieri e il sud Italia, anche se aumenta la povertà al nord, al centro e nelle grandi città. Il 7,6% dei residenti nel 2015 è considerato povero, rispetto al 6,8% del 2014 e al 7,3% del 2013. Altro fenomeno che emerge dal rapporto Istat è la crescita della povertà nelle fasce dei più giovani. Le difficoltà economiche sono infatti triplicate per chi ha meno di 35 anni negli ultimi 10 anni, mentre sono rimaste stabili tra chi ha più di 65. E se gli anziani in povertà assoluta sono 538.000, i giovani tra i 18 e 34 sono il doppio. Preoccupa anche la condizione dei bambini, oltre 1 milione i minorenni indigenti, 1 su 10. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. La Commissione europea ha di nuovo messo nel mirino Google, alla quale ha rivolto 2 ulteriori accuse. In particolare, sotto la lente dell'antitrust europeo è finito Alphabet, che cos'è? Il servizio di shopping online di Google, che per Bruxelles viene sistematicamente favorito nelle ricerche online. A Google viene anche poi contestato l'abuso di posizione dominante per aver artificialmente ristretto la possibilità per i siti terzi di mostrare le pubblicità di motori di ricerca concorrenti di Google stesso. Una moratoria per non bloccare i cantieri. La richiesta del presidente dell'ANCE Claudio De Albertis per la norma del nuovo codice degli appalti che obbliga le stazioni appaltanti a mettere a gara solo appalti basati su un progetto esecutivo. Questa norma, spiega, impedirà di fatto la messa in gara di tutti quei lavori concepiti secondo la logica dell'appalto integrato prevista dal vecchio ordinamento. Il nuovo codice per l'ANCE è una rivoluzione da condividere, ma servono un periodo transitorio e alcuni aggiustamenti, e dunque chiede l'ANCE appunto una moratoria su tutto questo. Veniamo alla giornata politica. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Buongiorno, nel giorno della presentazione delle firme per il referendum confermativo sulle riforme costituzionali interviene il ministro dell'economia Piercarlo Padoan. Fermare le riforme oggi e tornare indietro, aumentare l'incertezza e la sfiducia per peggiorare le prospettive future con chiari effetti negativi sulla ripresa economica, dice Padoan, anche a fronte dell'incertezza del quadro europeo e globale. Nel frattempo ha raggiunto l'obiettivo delle 500.000 firme del comitato del sì per il referendum, soddisfatto il vice segretario PD Lorenzo Guerini. Per noi questo risultato è una spinta importante, dice, per approvare la riforma e spiegare agli italiani come il sistema istituzionale venga migliorato, la politica alleggerita e meno costosa. Guerini poi non commenta il mancato raggiungimento delle 500.000 firme da parte del comitato del no. Sul fronte strettamente politico invece Angelino Alfano ricompatta i centristi e promette presto un nuovo partito, mentre la maggioranza, ricordiamo, ieri ha tenuto al Senato nel voto sugli enti locali. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo alla politica britannica, il post-Brexit. Following the referendum we face a time of great national change. Dopo il referendum affrontiamo un tempo di grande cambiamento nazionale per un nuovo ruolo audace e positivo fuori dall'Unione Europea, con un governo che lavorerà per la giustizia sociale e per tutti i cittadini britannici, non per alcuni privilegiati. Queste le prime parole di Theresa May davanti al numero 10 di Downing Street. La May ha subito reso nota la lista della sua squadra di governo. Philip Hammond, già ministro degli esteri di Cameron, è il nuovo cancelliere dello scacchiere, al posto di George Osborne. Michael Fallon alla difesa e Amber Rudd passa invece dall'energia all'interno, prendendo il posto della stessa May. Tra i più importanti dicasteri vanno poi segnalati anche Boris Johnson, l'ex sindaco di Londra, nonché paladino della campagna per la Brexit, ministro degli esteri, e il Brexiter Liam Fox al commercio internazionale, mentre arriva anche il nome del nuovo ministro per la Brexit, David Davis, il 67enne Tory, da tempo all'opposizione nel partito e sostenitore del Leave al referendum. E Theresa May ha chiesto tempo per l'uscita dall'Unione, preannunciando che non chiederà l'attivazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona prima di fine anno. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca dall'Italia: il GUP di Brescia condannato all'ergastolo al termine del processo con il rito abbreviato Claudio Giardiello, l'imprenditore che uccise 3 persone e ne ferì altre 2 al tribunale di Milano il 9 aprile del 2015. Giardiello ha detto in aula che la pistola che usò era da 3 mesi in tribunale, in dichiarazioni spontanee prima che il GUP di Brescia stesso entrasse in camera di consiglio per emettere la sentenza. E dopo gli avvisi di garanzia a carico di 17 ex dirigenti e amministratori di Carife, la Casa di Risparmio di Ferrara, scattano le perquisizioni nelle sedi di 4 banche italiane che hanno partecipato all'aumento di capitale. Si tratta della Banca Popolare di Bari, di Banca Popolare di Cividale, Banca Popolare Val Sabbina e Cassa di Risparmio di Cesena. Contestualmente le perquisizioni sono state notificate dalla Guardia di Finanza altre 4 informazioni di garanzia ai 4 dirigenti di queste banche, che portano a 21 gli avvisi di garanzia. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi dopo ci ritroviamo. chiediamo per tornare innanzitutto nel nostro giro per l'Italia a parlare della sicurezza dei treni. Toccheremo due punti, la Campania e la Roma Viterbo, per farci raccontare dai dirigenti come sono messi questi binari, i luoghi nei quali si incrocia il binario unico con la mancanza di un sistema automatico di controllo. E poi vi racconteremo una vicenda che in realtà vi avevamo già annunciato nei giorni scorsi. È la vicenda che riguarda la Sardegna, un'intera regione praticamente senza elisoccorso. Nei giorni scorsi una donna ha perso un bambino per questo e in dicembre una pensionata addirittura morta perché non ce l'ha fatta ad arrivare in ospedale. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione vi abbiamo dato gli aggiornamenti dalla Puglia sullo scontro tra i treni, la rabbia dei parenti delle vittime, l'attesa per il Presidente della Repubblica Mattarella. Vi abbiamo parlato dei dati sulla povertà arrivati dall'Istat che indicano in 4 milioni e mezzo di residenti le persone in povertà assoluta. Abbiamo parlato delle parole di Raffaele Cantone, che ha toccato anche il tema dell'incidente in Puglia, e vi abbiamo parlato dell'ergastolo per Giardiello, l'uomo che entrò nel tribunale di Milano e uccise tre persone. Adesso iniziamo il nostro giro per l'Italia. Il nostro primo punto sulla mappa lo mettiamo a Napoli, lo mettiamo in Campania per tornare a parlare di treni. A proposito di questi, qualcuno ci scrive via SMS al 349-238-6666 che nelle prime ore dopo l'incidente abbiamo detto che i treni erano modernissimi. Lo confermiamo, i treni che si sono scontrati erano modernissimi. Il problema sta tutto appunto nei sistemi di sicurezza automatizzati che consentono che questi incidenti siano evitati, fermando nella sostanza i treni. In Campania la EAV gestisce circa 240 km di rete ferroviaria, un terzo è a binario semplice e i sistemi di sicurezza sono variegati. I tratti più a rischio sono Benevento Cancello e la Circumflegrea, come spiega il presidente Umberto De Gregorio al microfono di Livia Zancanera. Sono dei sistemi variegati perché ti va da sistemi di ultima generazione sul tratto della metro Campania a sistemi non di ultima generazione ma direi molto affidabili sulla Circumvesuviana, a sistemi un po' più antichi invece sulla Circumflegrea e anche sul tratto di Benevento Cancello. In particolare sulla Circumflegrea io ho trovato un fascicolo aperto che si chiama Bombardier dal nome della multinazionale americana con la quale vi era stata una interlocuzione per ammodernare il sistema di sicurezza, ma da 12 anni questa pratica è bloccata per un contenzioso che non ha visto mai fine e che purtroppo per come si è messo porterà ora in questi prossimi giorni alla risoluzione del contratto proprio per poter finalmente avviare poi una nuova pratica e quindi ammodernare il sistema di sicurezza. Vi sono 18 milioni di euro stanziati dal patto per la Campania siglato tra il governatore De Luca e il presidente Renzi proprio sul tema sicurezza reti EAV. Su quella linea che sistema c'è? Quello della telefonata di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni? È un sistema che non è della semplice telefonata perché è un po' più articolato, ci sono dei meccanismi di controllo, ma c'è un sistema dove sicuramente se c'è un errore umano evidente, cioè che c'è il semaforo rosso, io dico passa e là ti crea il problema, non c'è dubbio. Però le dico anche che sono 30 anni che c'è questo sistema e lì non abbiamo avuto nessun incidente attribuibile a questo tipo di fenomeno. Così dunque Umberto De Gregorio, presidente della EAV, che in Campania, come si diceva, gestisce circa 240 km di rete ferroviaria. Un altro punto sul quale si sta concentrando l'attenzione in queste ore è il tratto Roma-Viterbo. Sempre la nostra Livia Zancaner, che ha fatto un lavoro ottimo e approfondito su questo tema, ha sentito anche Fabio Millock del UGL Autoferro Tranvieri. I sistemi di sicurezza sono praticamente inesistenti, se non molto simili nella tratta dove è accaduto l'incidente giù in Puglia, perché le infrastrutture sono materiali vetusti, vecchi e non funzionanti. Un esempio, anche le stesse gallerie non ci sono né le vie di fuga né i banchetti di emergenza come ci dovrebbe essere all'interno. Poi ci sono gli spazi e i binari che non sono recintati, ci sono i passaggi livello, che questo secondo me è una cosa molto grave, che sono praticamente tutti incustoditi senza alcun tipo di barriere e quindi si può tranquillamente avvicinarsi, non c'è nessuna segnalazione, non c'è non c'è praticamente nulla. Poi ci sono dei disagi del personale, perché ci sono delle situazioni minime dei servizi igienici per i capilinea, capitreno. E proseguiamo adesso il nostro giro per l'Italia. Il prossimo punto sulla mappa vogliamo metterlo in Sardegna, iniziando da una storia, è qualcosa che vi avevamo già annunciato nei giorni scorsi. Poi ovviamente c'è stato l'incidente ferroviario in Puglia e questa vicenda è passata in secondo piano. È però una storia che ci ha interessato molto. La vicenda è questa: una donna incinta in vacanza a Carloforte in Sardegna. Si sente male, deve partorire, deve prendere un traghetto per andare a partorire. Questo perché? Perché la Sardegna è l'unica regione italiana, e l'abbiamo appreso così, con questa donna che ha perso suo figlio, è l'unica regione italiana che non è dotata di elisoccorso. Tutto questo nonostante abbia, e questa è l'ulteriore assurdità, degli elicotteristi formati ormai da tempo. La denuncia di tutto questo, la denuncia della situazione appunto dell'elisoccorso, è arrivata dal senatore Luciano Uras, che è sardo appunto ed è di Sinistra Ecologia e Libertà. Senatore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Allora, ci dà qualche dettaglio su questa vicenda, soprattutto questo fatto incredibile degli elicotteristi formati e l'assenza di elisoccorso, che sono assurdità tipicamente italiane. Farei una distinzione tra un tema e l'altro, perché il primo tema risale agli anni 90, quando l'amministrazione regionale, che intendeva adottare il suo corpo forestale di vigilanza ambientale, uno dei corpi, come dire, organizzati su base regionale, sostitutivo del Corpo Forestale dello Stato in quel territorio, aveva formato un gruppo di giovani nella guida proprio degli elicotteri, in funzione sia di un impiego in attività di spegnimento che per la vigilanza del territorio, ovviamente per l'elisoccorso. L'elisoccorso, quello sanitario, richiede peraltro equipaggi di un certo tipo, dotati anche di professionalità mediche e infermieristiche, e quindi anche in numero definito dalla legge. Sì. Questa cosa si fece, si prepararono alcuni giovani, si mantennero in attività di volo, quindi garantendo la validità del brevetto per un certo numero di anni in attesa di fare il concorso. Non si fece mai. Il risultato qual è? Che a distanza di oltre 25 anni da queste vicende, la Sardegna è ancora priva di un adeguato sistema di elisoccorso. Sì. Noi facciamo una convenzione con il Corpo dei Vigili del Fuoco. Siamo dotati purtroppo di riferimenti inadeguati, sufficienti allo stato dell'arte, per cui succedono sostanzialmente fatti come questo, certo. Dove noi duplichiamo e triplichiamo la popolazione in alcuni centri, passiamo da 1000 abitanti a 10.000, 15.000, 20.000 abitanti. Si capisce benissimo che è ingestibile in questa situazione. Tra l'altro, senatore, ci sono 20 milioni di euro a disposizione e tipicamente non sono mai stati spesi. Altro schema tipico italiano, no? Altro schema tipico italiano, purtroppo, che colpisce in modo particolare il Mezzogiorno e le isole. Nasce dal fatto che le norme in materia di appalti sono, per quanto si tenti di semplificarle, molto impegnative, e soprattutto noi riteniamo, e per questo abbiamo presentato anche un progetto di legge, che il contenzioso che segue i bandi allunghi notevolmente ogni procedura di selezione e di aggiudicazione, per cui va fatto un controllo preventivo, e questo controllo preventivo va attribuito possibilmente alla Corte dei Conti, che intervenga sul piano sia della legittimità che della congruità della spesa, evitando che poi si determini uno strascico di contenzioso che blocca l'acquisto di, o la convenzione di servizi di questa natura. La sostanza poi è questa, è quella che abbiamo visto, una donna che ha perso il suo bambino, per quanto poi noi abbiamo provato a parlare con l'assessorato alla sanità della regione Sardegna, ci hanno detto e hanno sottolineato dall'altra parte che si sapeva già che fosse una gravidanza a rischio, ma evidentemente questa non è una risposta, tanto che a dicembre abbiamo il caso di una pensionata che alla Maddalena è stata colpita da un aneurisma e non ha fatto in tempo ad arrivare all'ospedale di Sassari. Questo lo stato dell'arte dell'elisoccorso in Sardegna, altra vicenda, come si diceva, tipicamente italiana. E grazie a Luciano Uras, senatore di SEL, buona giornata. Buona giornata. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede sui mercati e nella seconda parte della trasmissione torniamo su un tema che stiamo toccando molto in questi giorni. Il prossimo punto sulla mappa lo metteremo a Roma, ci stiamo occupando molto, come sapete, del tema dell'accoglienza di migranti e profughi e soprattutto di come viene gestita. Non è una questione di come la pensiate, cioè se devono essere espulsi subito, tenuti qua, questo non è il ragionamento che stiamo affrontando la questione di come viene gestita a livello centrale da parte del Ministero dell'Interno, da parte dei prefetti, da parte dei comuni, affinché tutto questo non si trasformi in un problema di ordine pubblico. Siamo andati in Veneto, siamo andati a Milano, siamo andati a Como e tra poco andremo a Roma e poi a un certo punto, nell'arco dei prossimi giorni, andremo a sentire anche appunto il Ministero dell'Interno. Intanto la pausa e la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: ci sono innanzitutto le dichiarazioni appena arrivate dal procuratore di Trani, Francesco Giannella, sulla vicenda dei due treni che si sono scontrati. Parlare di un errore umano è corretto, ma è assolutamente riduttivo, dice Giannella, che non ha voluto confermare il numero degli indagati, sarebbero due o tre, non è ancora chiaro. Nel frattempo su questo tema interviene anche il presidente dell'anticorruzione Cantone, che dice c'è un collegamento con la corruzione, probabilmente un errore umano, ma dietro c'è un problema atavico del nostro paese, la corruzione che non fa realizzare le infrastrutture adeguate. Sono in povertà assoluta, oltre 4 milioni e mezzo di residenti in Italia, dice l'Istat, il picco massimo dal 2005, sono toccate soprattutto le famiglie numerose e quelle di stranieri. Ergastolo per Giardiello, l'uomo che entrò nel tribunale di Milano e uccise tre persone, la pistola introdotta a Palazzo di Giustizia tre mesi prima, dice lui in dichiarazioni spontanee prima della sentenza. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, il prossimo punto sulla mappa lo vogliamo mettere a Roma per proseguire su quella che è la linea dei temi che stiamo affrontando in queste ultime ore, in queste ultime settimane, ossia il problema della gestione dei migranti e dei richiedenti asilo. Come si diceva, vi abbiamo raccontato quello che succede in un'area del Veneto alle spalle di Chioggia, dove in un paio di paesini confinanti, tra l'altro, vengono stipate complessivamente 1000 persone, di cui 600 in una caserma che non è nemmeno un hub o un centro di accoglienza. Vi abbiamo raccontato dei problemi che ci sono a Milano e che ci sono stati in queste ore e che probabilmente torneranno, di quello che succede a Como, dove gli immigrati e i profughi respinti dalla Svizzera si fermano in stazione. Ogni sera ne arrivano tra gli 80 e i 90, poi in qualche modo vengono dispersi, provano ad andare verso il nord Europa e in altre direzioni. L'impressione complessiva, però, siamo stati anche a Vicenza dove abbiamo parlato col viceprefetto e là c'è un problema di distribuzione, di un'accoglienza più diffusa. Appunto, come dicevamo, la questione non è tanto una questione politica, se accogliere, non accogliere, espellere, non espellere, ma una questione di gestione dell'ordine pubblico e di gestione di questi flussi che ci sembra in questo momento decisamente carente, vedendo le storie che raccogliamo nei territori. Vogliamo andare a Roma, che è stato un po' al centro di tutto questo nell'ultimo periodo, se ne è parlato moltissimo, ovviamente anche perché è la capitale, e a quello che succede in zona Tiburtina, in particolare in via Cupa, dove c'è una vera e propria tendopoli. Siamo in linea con Francesca Del Bello, che è la presidente del Municipio 2. Buongiorno Del Bello, benvenuta. Buongiorno. Allora, ci dà un quadro della situazione, di cosa succede adesso in via Cupa? Dunque, al momento sono ospitati sulla strada, sostanzialmente circa 200 persone, 200 migranti, e sono ospitati alla bene e meglio, quindi ci sono delle tende, delle igloo dove possono dormire e riposare, a volte queste non bastano e quindi sono appoggiati su dei cartoni o dei materassi di fortuna, in una condizione insomma ovviamente molto precaria e di certo non dignitosa per loro stessi innanzitutto. Quindi al momento è questo. Noi, il nostro municipio ha immediatamente investito il comune, la sindaca di questo problema, perché ci riguarda direttamente in quanto esiste sul nostro territorio, anche se il problema ovviamente è un problema che riguarda la città nel suo complesso. E con il comune stiamo cercando di capire quali sono le forme migliori per organizzare un'accoglienza dignitosa, che sia rispettosa innanzitutto di queste persone e poi anche dei cittadini residenti. E certo, che stanno protestando vivacemente, mi sembra di capire, no? Sì, perché ovviamente l'area via Cupa è un po' spostata rispetto alla stazione di Bustina, perché è tra la stazione di Bustina e Piazzale del Verano, un po' più verso la stazione. Però la stazione Tiburtina è un luogo, soprattutto la parte esterna, quindi il piazzale esterno alla stazione, sollecitato da tantissimi problemi, perché ci sono luoghi, ad esempio delle aree verdi al di sotto dei piloni della tangenziale, che sono occupati da senza fissa dimora o piuttosto che zingari che fanno degli accampamenti di fortuna. C'è un'area dove c'è una stazione Tibus, che è una stazione di pullman interregionali e che vanno anche nell'est europeo, in uno spazio inadeguato, troppo piccolo, quindi non c'è parcheggio. Ci sono delle soste a rotazione degli ambulanti che occupano una parte dello spazio del piazzale, quindi è veramente un caos. È una situazione di estrema confusione e di grande insicurezza per i cittadini. Alla quale si aggiunge appunto tutto questo. Senta, ma come è nata questa Tendopoli, sostanzialmente in quello che ormai è uno dei cuori di Roma, insomma, no? Perché la città si è allargata molto nel corso degli anni, insomma, se la stazione Tiburtina poteva sembrare un po' lontana dal centro fino a qualche tempo fa, ormai stiamo più o meno a ridosso. Come si è formata questa Tendopoli? Perché mi sembra di aver capito che è coinvolta un'associazione di zona che si occupa di queste cose. Sì, allora, tutto nasce nello scorso anno, nel maggio dello scorso anno, quando fu sgomberato un accampamento abusivo che però stava lì da circa 11 anni a Ponte Mammolo, dove venivano accolti i cosiddetti transitanti e persone temporaneamente presenti, come si definisce adesso. Fu sgomberato questo campo, per cui ci fu da quel momento in poi una diaspora di queste persone che si riversarono in via Cupa, dove c'era lo scorso anno un'associazione che gestiva uno spazio, sì, in realtà privato, dato in concessione al Comune di Roma, dove c'era un'associazione che si occupava di integrazione, eccetera. Sì. Che è l'associazione Baobab, no? L'associazione Baobab, esatto. Sì. Quindi furono accolti in parte in questo spazio che stava proprio a via Cupa, e in parte fu allestita una tendopoli della Croce Rossa invece all'interno dell'area ferroviaria. Sì. E quindi il problema fu affrontato in termini emergenziali in questo modo. Sì. E lo spazio di via Cupa, a fronte di questo fenomeno, sì, molti dei cittadini residenti in quell'area fecero delle opere di volontariato, andarono a portare vestiti, cibo, quindi si animò una rete di volontariato significativa e importante nei confronti di queste persone. E quindi lì ci fu un gruppo di volontari che in maniera spontanea e autonoma gestirono insieme all'associazione Baobab l'accoglienza per lo scorso anno. Sì, il problema è, mi scusi, che è passato un anno e sostanzialmente non è cambiato niente, mi sembra, sì, di capire. Non solo, anzi è peggiorata. Il centro, l'associazione non esiste più, il centro non c'è più perché il privato è rientrato in possesso del proprio bene. Quindi il problema è che si considera Via Cuba ancora come punto di riferimento per questi migranti, però il centro vero e proprio lì non c'è più, e quindi per questo diciamo vengono accolti sulla strada, perché si riversano lì, vanno lì, lo considerano ancora un punto di riferimento dove pensano di poter avere accoglienza, cosa che non è perché non c'è lo spazio, e quindi ci sono questi... li si accolgono in questo con queste modalità. Sì. Quindi c'è questa associazione, si è formata questa associazione che si chiama Baobab Experience nel corso del tempo, sì, la quale aveva sollevato al prefetto Tronca, al commissario Tronca, la necessità di trovare un luogo per l'accoglienza, e questa cosa ancora non ha trovato risposta. Allora io la ringrazio Francesca Del Bello perché ci ha aiutato ad illustrare la situazione, vedremo come evolverà e torneremo anche in altri territori, vi diciamo se avete vicende particolari da segnalarci. Ci è arrivata una segnalazione da Nettuno e siamo sempre nei dintorni di Roma, stiamo verificando e vedremo di affrontarla eventualmente. Effetto giorno @radio24.it. Traffico, America 24 con Mario Platero. Ci risentiamo alla fine per i saluti.